è da oggi che comincio senza te. E tu, l'aria assente, quasi come se io fossi trasparente. E vorrei fuggire via e nascondermi da tutto questo. Senza parlare, senza dirti.